Non ti scordare di te. Vacci a vaccinarti, per favore. Vacci è imperativo presente del verbo star bene. Per prevenire influenza, polmoniti e altre malattie. Vacci a vaccinarti, per favore. Vacci a vaccinarti. Non ti scordare di te. Campagna di Happy Aging per la vaccinazione over 60. Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini. Settima puntata. Ora mia madre aveva preso in mano la scopa e spazzava intorno. Ed era con molta ricchezza, madre e donna. E io, dentro di me, quasi ridendo, pensai che avrebbe potuto essere stata anche lei, una di quelle che lei chiamava sporche vacche, regina, malgrado le sue mani rozze per altri uomini, occulta e ape regina e madre di entusiasmi. Perché no? Pensai. Troppa ricchezza aveva lei in sé di madre per essere stata solo una moglie ed essersi consumata, meschina, povera diavola, dietro agli entusiasmi del suo uomo verso altre donne. Troppo aveva vecchio miele in sé, muovendosi ora in quella cucinetta così alta coi capelli quasi biondi, la coperta rossa sulle spalle. Troppo vecchio miele aveva in sé. Non poteva essere stata povera diavola. E dentro di me, quasi ridendo, dissi: «Sei una buffa donna. Avresti voluto che si sentissero vacche». «Lo avrei voluto», disse mia madre. «Avrei voluto ridere di tutta la cosa». «Sei una buffa donna», io dissi. «Avresti riso della cosa». E mia madre: «Naturalmente. Non me ne sarebbe importato nulla. Ne avrei riso. Ma lui non le trattava da vacche». Ed io: «Perché avrebbe dovuto? Avevano un marito come te, anche dei figli come te e mia madre». «Bene, nessuno le obbligava a fare le vacche». Ed io: «Era così sporco quello che facevano. Non facevano la stessa cosa che facevi tu con lui? O facevano qualche altra cosa?» «Qualche altra cosa?» esclamò mia madre. E un momento si fermò di spazzare. «Come qualche altra cosa?» disse. «Facevano la stessa cosa, naturalmente. Che potevano fare d'altro?» «E allora?» dissi io. «Avevano un marito come te, avevano dei figli come te, e non facevano nulla di più sporco di quello che facevi anche tu con lui. Perché lui avrebbe dovuto trattarle da sporche vacche?» E mia madre: «Ma non era marito loro, lui. Era marito mio». «Ed è qui la differenza», io dissi. E dentro di me ridevo. La vedevo interdetta in mezzo alla cucina, con la scopa in mano, senza più spazzare, e dentro di me ridevo. «Non capisco come ragioni», dissi. E dentro di me ridendo decisi di arrischiare il colpo. «Io non capisco come ragioni», dissi di nuovo. E dissi: «Eri una sporca vacca tu quando facevi la cosa con altri uomini». Mia madre non arrossì. I suoi occhi si accesero, la sua bocca si chiuse, dura, e tutta lei fu dura, più alta, agitata nel suo vecchio miele, ma non arrossì. E io dentro di me, ridendo, dissi: «Perché suppongo che sarai stata anche tu al ballone». Ero contento di agitarla nel suo vecchio miele e ridevo dentro di me, ero loquace. «Non sarai stata sempre in una cucina», dissi. «Sarai pur stata al ballone con qualcuno». «Oh», disse mia madre. Era di sasso in mezzo alla cucina e sconvolta nel suo vecchio miele, ma non rossa, non vergognata. «Oh», disse, guardandomi dall'alto in basso. Ed era più che mia madre, dicendo questo. Madre uccello, madre ape, ma il suo vecchio miele in lei era troppo vecchio e si acquietò in lei, si stese malizioso. Ed io ero dopo tutto un figlio di 29 anni, quasi 30 anni, e a lei estraneo per metà di me da 15 anni, un uomo qualunque per metà di me. E così lei disse, riprendendo a spazzare: Bene, suppongo che se lo è meritato se sono stata con altri uomini una volta o due. E io pensai dentro di me ridendo, vecchia vacca, e dissi, naturalmente che se lo è meritato. Poi chiesi, con molti uomini? Oh, esclamò mia madre, cosa credi che abbia tirata la carretta per loro uomini? E io, ma no, volevo sapere se era stato con un uomo o con due. E mia madre, con uno, con uno. Perché un'altra volta fu uno sbaglio e non conta. Uno sbaglio, dissi io. Come uno sbaglio? E mia madre, fu una cosa con un compare mentre eravamo a Messina. Dopo il terremoto, fu una cosa di confusione, insomma. Ero molto giovane e non se ne parlo più. Ma guarda, dissi io, e con quell'altro? E mia madre, oh, con quell'altro fu per caso. Era anche lui un nostro compare, dissi io. E mia madre, no, era uno che non conoscevo. Era uno che non conoscevi, esclamai io. E mia madre, che ci trovi da meravigliarti? Non sai come andarono le cose. E io, immagino che ti avrà violentata. E mia madre, violentata. Io risi entro di me per il tono in cui mia madre disse questo. Poi, osservandola come da un altro punto della terra, non da lì, nella sua cucina stessa e nella sua Sicilia, dissi, ma dove fu? Si era già nelle case cantoniere? Si era ad Acquaviva, disse mia madre. Io ora l'ascoltavo da un altro punto della terra e pensai Acquaviva molto lontana nello spazio, una solitudine in bocca a un monte. Pure dissi, ma eravamo tutti grandi ad Acquaviva, era dopo la guerra. E con questo, disse mia madre, avrei dovuto domandare il permesso a voi che eravate grandi. Tu avevi 11 anni, andavate a scuola e andavate a giocare. Così era in quelle solitudini. Acquaviva, San Cataldo, Serra di Falco, i ragazzi a scuola, partiti con un treno merci o a giocare nelle crepe della tonda campagna, l'uomo al lavoro col badile, la madre al lavoro col bucato o altro, ognuno col suo proprio diavolo sotto il cielo delle solitudini. Era splendido, così lontano nello spazio, e mia madre disse che era una terribile estate. Questo significava non più un filo d'acqua in tutti i torrenti per 100 chilometri da ogni parte, e dinanzi agli occhi nient'altro che stoppie da dove il sole spuntava sino a dove tramontava. Non c'erano case per 20-30 chilometri da ogni parte, eccetto lungo la linea le case cantoniere schiacciate a terra dalla solitudine. E che era una terribile estate significava non un'ombra per tutti quei chilometri, le cicale scoppiate al sole, le chiocciole vuotate dal sole, ogni cosa al mondo diventata sole. Era una terribile estate, disse mia madre. Aveva finito di spazzare, girava per la cucina mettendo le varie cose a posto e non raccontava, rispondeva alle mie domande. Era una mattina, era un pomeriggio, domandai io, e lei, credo che fosse un pomeriggio. Non c'erano vespe, non c'erano mosche, non c'era nulla. Doveva essere pomeriggio. E tu che facevi? Domandai io, e lei, avevo fatto il pane. Dunque c'era questo. Per chilometri e chilometri odore di serpe morto al sole, poi d'un tratto, attorno a una casa, odore di pane sfornato. Avevo fatto il pane, disse mia madre. E poi? Domandai io. E mia madre, lavavo. Avevamo una vasca fuori, accanto al pozzo. E doveva essere pomeriggio, perché c'era ombra dalla parte appunto della vasca. Lavavo sempre di pomeriggio. Era pomeriggio, dunque, e c'era l'odore di pane sfornato attorno a una casa, e lì c'era un pozzo, c'era acqua venuta in treno col vagone cisterna, una donna che lavava. Ma non raccontava a mia madre. Rispondeva alle mie domande e io domandai, «E allora lui?» «Era un viandante», disse mia madre. «Un viandante!» esclamai. «Sì, «Uno che viaggiava a piedi», disse mia madre, «e io per tutti quei chilometri senza un filo d'acqua, senza paesi». E mia madre, «Sì, con una piccola bisaccia di roba per cambiarsi e vestito da soldato senza stellette, un vecchio cappello da mietitore in testa». E s'era tolte le scarpe, le portava legate insieme sulla spalla. «Veniva da lontano?» dissi io. E mia madre, «Immagino». Mi raccontò che era passato per Pietraperzia, Mazzarino, Butera, Terranova e altri 100 posti, ma sembrava venisse diritto da dove era finita la guerra. Vestiva ancora da soldato, sebbene non avesse le stellette. «Tutto a piedi», dissi io, «per Terranova, Butera, Mazzarino, Pietraperzia». E mia madre, «a piedi». Quel giorno erano 48 ore che non incontrava un paese né anima viva. «E non mangiava da 48 ore, non beveva da 48 ore», dissi io. E mia madre, «di più». L'ultimo posto per dove era passato era una masseria e i cani non lasciavano avvicinare i viandanti alle masserie. Così mi raccontò e intanto aveva bevuto un secchio d'acqua. Si fermò come se non avesse più nulla da dire e io le domandai, «Non voleva che acqua?» «Voleva anche altro, se poteva averlo», disse mia madre. «Non chiedeva, in vero, ma io gli diedi una pagnotta del pane che avevo sfornato non più di un'ora prima e gliela condii con olio, sale e origano e lui annusava l'aria, l'odore del pane e diceva, «Benedetto Dio!» Di nuovo mia madre si fermò, non raccontava, rispondeva alle mie domande e io domandai qualcosa, non so più che cosa, e mia madre disse che quell'uomo la guardava mentre diceva «Benedetto Dio» e mangiava la pagnotta. E io di nuovo le domandai qualcosa, non so più che cosa, e mia madre disse come capì che l'uomo fosse affamato e assetato anche di altro e non chiedeva dicendo «Benedetto Dio», ma voleva anche altro se poteva averlo. E io di nuovo le domandai non so più che cosa e mia madre disse come avrebbe voluto che l'uomo non restasse affamato e assetato di niente e come avrebbe voluto vederlo placato come le pareva cristiano e caritatevole, placarlo anche nella sua fame e sete di altro. E io pensai, benedetta vacca, e dissi, ma insomma fu anche questa una cosa di passaggio. «No», disse mia madre. «L'uomo ritornò altri pomeriggi». E io, «Era di quelle parti allora. Non era un viandante». E mia madre, «Era un viandante. Andava a Palermo e aveva attraversato tutta la Sicilia». E io, «Andava a Palermo. Andò a Palermo». E mia madre, «Andava, ma non andò. Andò fino a Bivona e lì trovò lavoro in una zolfara. Si fermò lì». «A Bivona?» dissi io. «Ma Bivona è lontana da Acquaviva». E mia madre, «È di là dal monte, una cinquantina di chilometri. Tutti i paesi sono lontani una cinquantina di chilometri da Acquaviva». «No», dissi io. «Casteltermini è più vicino che 50 chilometri. Come mai non si fermò a Casteltermini?» E mia madre, «Forse a Casteltermini non c'era lavoro, o forse voleva continuare verso Palermo e arrivò a Bivona e lì decise altrimenti. E faceva 50 chilometri a piedi per venire a trovarti», dissi io. E mia madre, 50 per venire e 50 per andarsene. Era un viandante e il settimo giorno dopo quel pomeriggio ricomparve». «Ricomparve molte volte», dissi io. E mia madre, «Varie volte. Mi portava dei piccoli regali. Una volta mi portò un favo di miele fresco che profumò tutta la casa». «Oh!» esclamai io e dissi, «Come mai non ricomparvi più?» «Ecco», disse mia madre, e fu per continuare, ma mi guardò e mi chiese, «Non mi domandi se era un gran lombardo?» «Oh!» esclamai io, «Perché? Che c'entra?» «Credo che lo fosse», disse mia madre. «Credo che pensasse ad altri doveri. Non è un gran lombardo, uno che pensa ad altri doveri. Pensava ad altri doveri, esclamai io. Lui, il viandante. Sì, disse mia madre. Verso inverno ci fu uno sciopero nelle zolfare e i contadini si ribellarono anch'essi. Passarono treni carichi di guardie regie. Ora mia madre raccontava, non occorreva che io la interrogassi. I ferrovieri non scioperarono, disse. Passarono treni carichi di guardie regie e morirono più di 100 a Bivona, non di guardie regie, di loro. E tu credi che lui sia stato fra i morti? Io dissi. Così credo, disse mia madre. Perché altrimenti non sarebbe ricomparso? Ah, io dissi. E guardai mia madre. Vidi che non aveva più nulla da fare in cucina e che era quieta, tranquilla, e che con la mano si stirava il vestito sulla gamba e di nuovo pensai, benedetta vacca. Tommaso Ragno ha letto Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini. A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.